Così ci rubano rimetta l'antica lingua, disseminando Babilonie come scrollassero di dosso torri babelliche che confuse sparigliano idiomi suppellettili, snervanti soprammobili da spolvero. Così spossando un arduo deserto fecondo, scendono bomba a bomba nell'arena assolta disanimati gladiatori ebri d'attrezzi. Arrugginisce la tenaglia del tenace delta, che si biforca ruggendo ai nostri barbari. Così gli invasi emulano allarmi chi, inimicandosi, scompiglia supplici incartamenti d'orecchie con spocchie fluorescenti al fosforo e non sappiamo chi intimamente ci scommetta.